Yeah. soltanto violenza. Odia! Odia! Odia! Odia! Sergenti e colonnelli pagati dallo Stato per distruggere i cervelli, studiate nuovi modi per farvi rispettare, tornate i magazzini degli oggetti di valore. Odia! Odia! Odia! Odia! Odia! anticonformisti, all'anticonformismo. Tutti quanti protestate, ai, ai, ai. E tenetevi al sistema, ai, ai, ai. Sono inutili parole, ai, ai, ai. Siete tutti conformisti, all'anticonformismo. Siete tutti conformisti, all'anticonformismo. Save the right to speak. I'm not a comrade, not a comrade, not a comrade. costruito questa mia generazione. Non potete lamentarvi, è una vostra creazione. La colpa è anche vostra, ma non lo riconoscete. La colpa è anche vostra, ma non lo riconoscete. We'll be right back. dei giochi usi, attentati di latte, quartiere celesti per la via Emilia, attentati di latte, il centro deserto, i ricchi in paura, attentati di latte, avvolti nel buio, pianti illegali. Hey! che vuoi, niente ciò che vuoi. Inutili eroi da 5 minuti. Se tu stai con sugli schermi della vita, sei non di cambiare questa storia. Non fai altro che confermarla. Non fai altro che confermarla. Diventa unito il culto idea astratta. divento, divenendo colpa idea astratta. Sentimento divenendo colpa idea astratta. Sentimento divenendo colpa idea astratta. Sentimento divenendo colpa idea astratta. Colpa idea astratta. Sentimento divenendo colpa idea astratta. Sono in cui trionfassero questi istinti, sarebbe una rivoluzione persa. We'll be right back. Dietro di te, dietro di te. cielo.